stasera son in vena, de fa sentimental, la notte in si serena, ma mi me senti mal, te scrivi cara mamma, son stuf de resta qui, el me mila, el me chama, visina ti. Mamma mia, mi son lontano, ma con la nostalgia del me Milan. Mi vorraria tornare domani, e ci ricorreria con tel cuor in dimanche. Vede la Madonnina, senti il me bel dialetto, sveglia su una mattina in del melet. Oh mamma mia, in sci lontan, tel giri piangeria, pur deve samilà. La farna sfidata, se pensa in me bastiù, ma fu una sicurata, per cascia giò il magù. E quando vengo la sera, rivedi lei tu sa, rivedi la ringhiera di me vinta. Mamma mia bella, mi son tan distante di e pensi sempre al mio bel Milan, al nostro bel Milan. Vede la Madonnina, senti il mio bel dialetto, sveglia su una mattina in del mele. Metà bella mi tornerò e sempre in sul che te stringerò.